Ecco il cinema su Radio Onda Rossa, Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ma anche subito dopo il giornale radio, quindi eccoci alle 13.30, giovedì 27 aprile del 2017. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissione. Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo già con noi il nostro ospite con cui cominciamo la trasmissione di quest'oggi, Gianni Amelio, regista del film La Tenerezza, uscito una settimana fa in sala il 20 aprile scorso. Gianni, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ci sono. Ok, buongiorno. Perfetto. Buongiorno. Tutto bene? Sei a Milano, mi dicevi? Sono a Milano, c'ho una cosa che si chiama masterclass, che significa poi, lo sai che significa? L'uso delle parole inglesi certe volte mi sembra un po' esagerato, masterclass, suona cioè molto uno, forte. Beh, non lo so, cioè il maestro e la classe, non lo so, o la classe del maestro, non ho capito bene, cioè, potevano dire un incontro amichevole con un regista, non lo so, non lo so. Allora Gianni, insomma, ti chiedo, intanto è un piacere risentirti, è passato un po' di tempo, subito un bilancio di questa prima settimana di programmazione. Ma il film è uscito stranamente di lunedì perché c'erano dei ponti in mezzo eccetera, e lunedì e domenica lunedì e martedì ha fatto, adesso contano i numeri, prima si parla appunto di arte, poi dopo appena il film esce sono i numeri che parlano, no? Sì. Ecco, e i numeri dicono bene, dicono molto bene, nel senso che in due giorni il film ha fatto quasi 400.000 euro, in due giorni. In due giorni, per cui adesso aspettiamo la settimana, cioè il film è uscito esattamente oggi, che giorno è? Sono tre giorni di programmazione, non ho ancora notizie di ieri, che comunque è un mercoledì e quindi è un giorno più debole, però lunedì e martedì, dunque lunedì e domenica, lunedì e martedì, perché la domenica ancora non c'è stata. Scusa se faccio un po' di confusione, ma sono un po' rincoglionito perché sto facendo il giro quello solito della promozione, sì. Ed è una fatica, non nel senso che fisicamente ti stanchi, ma ti stanchi nel cervello, perché confondi addirittura i posti, tanto che tu tutte le sere dormi in una città diversa. Ieri sera io ho dormito a Magenta, per dire, che è una città dove uno non va forse mai se non ha proprio un interesse specifico. A Magenta mi avevano invitato perché c'era il mio film ieri sera. Io sono andato e ho dormito a Magenta per la prima volta nella mia vita. Stamattina sono arrivato a Milano, dormo a Milano, domani faccio il giro del Piemonte, e diciamo che insomma un po' di rimbambimento nel ci può stare. Allora Gianni, una derivazione letteraria, ci racconti un po' come è partito tutto il progetto, tutta l'idea? Guarda, il progetto è partito dal produttore. Okay. E la cosa a me fa molto piacere perché, diciamo, quando c'è qualcuno che condivide già all'inizio un progetto tuo, che poi diventerà tuo, diciamo, tu ti senti un po' più sostenuto moralmente. E io penso poi che il cinema non si faccia da soli, il cinema ha bisogno proprio di un po' di alleanze, soprattutto di un entusiasmo contagioso tra produttore, regista, direttore della fotografia, distributore, e noi qui abbiamo lavorato un po' in gruppo. Mm-hmm. Quindi l'idea è stata del produttore, che è Sacca, Agostino Sacca della Pepito. Poi ovviamente i finanziatori sono i miei soliti, cioè Rai Cinema, e poi ormai entra sempre con anche con Nostra Gioia qualche sponsor, eccetera. Mm-hmm. E c'era questo romanzo che io, come è mia abitudine, un po' stravolto, anzi diciamo che ho cambiato, mi sono preso libertà proprio molto molto forti. Okay. E quindi il soggetto poi l'ho firmato io insieme a Taraglio e Chiara Valerio, che sono i miei collaboratori anche alla sceneggiatura. E però diciamo che non sono proprio libertà leggere, mm-hmm. Ho cambiato parecchie cose. L'altra sera ho avuto il piacere di avere in sala l'autore del romanzo, il quale mi ha abbracciato e mi ha detto: guarda, mi sembra che sia più bello del mio libro. Quindi non lo so, un buon risultato. No, soprattutto è diverso, quindi sono due cose che possono camminare parallelamente. Okay. Senza urtarsi a vicenda. Non è un'illustrazione, ma è anche un altro modo di vedere Napoli, un altro modo di vedere i personaggi, insomma, diciamo che possono davvero convivere, dai. Senti, quali sono gli elementi del romanzo che più ti hanno colpito, che ti hanno spinto a intraprendere questa trasposizione? Posso dirti che ce ne sono due, ma uno fondamentale: Napoli. Io erano anni che volevo fare un film a Napoli, cercavo una storia, però è difficile trovare una storia a Napoli che non sia un po' troppo napoletana, diciamo. E infatti i film che si ambientano a Napoli sono un po' tutti della stessa natura, sia che siano commedie, sia drammatici o comunque di genere, per esempio, no? Mm-hmm. Ecco, io ho scritto una storia che vede Napoli come protagonista, però è una storia che davvero si potrebbe anche svolgere a Detroit e sarebbe la stessa cosa. Mm-hmm. Perché non è una cartolina Napoli, ma è un'anima. Un'anima. Francesco Rosi diceva: Napoli è il cuore del mondo. Addirittura io mi sono inventato in un dialogo che se uno guarda, fa il calcolo di quanti muoiono a Napoli ogni giorno, c'è una maniera per calcolare quanti ne sono morti al mondo in quel giorno. Mm-hmm. È una cosa ovviamente tutta ironica e inventata, però a Napoli c'è una vita speciale anche rispetto a tutto il resto dell'Italia, e infatti per questo è una città che ci incuriosisce molto e ha un patrimonio culturale così riconoscibile anche lontanissimo da Napoli, no? Cioè, voglio dire, pensiamo alla musica, napoletana, no? Sì. Dall'altissima musica di Donizetti alle canzoni classiche, a tutto quanto arriva dovunque ed è arrivato per decenni dovunque, no? Sì, allora sì. Chi è nato a Napoli magari ha una visione particolare, profonda della città, chi come me ci vuole andare perché ama scoprire un luogo come quello, insomma, ci va con un'anima molto disponibile alla conoscenza delle persone, dei luoghi, eccetera. E questo nel film si sente molto, anche perché nel film ci sono personaggi che dal nord arrivano a Napoli. Sì. E quindi in qualche modo giustificano anche questa visione non proprio dall'interno, no? Ci sono la storia di due famiglie che si incrociano e una delle famiglie viene addirittura da Trieste e l'altra invece è una famiglia napoletana da 7 generazioni. Io credo di essere stato diciamo abbastanza nel mezzo delle due, dei due sguardi, no? Sì, io sì. Che poi sono meridionale, chiaramente sono più vicino all'anima napoletana che non all'anima nordica, e quindi c'era una vicinanza più profonda con i personaggi di Napoli, che sono Giovanna Mezzogiorno e Renato Carpentieri soprattutto, e poi una cantante grandissima che è Maria Nazionale, che credo che faccia il suo, sì, forse il suo secondo film con La Tenerezza. E invece quelli che arrivano da fuori sono la meravigliosa Michela Ramazzotti e lo straordinario Elio Germano, sì, che erano due attori giovani con i quali io volevo misurarmi, perché Carpentieri, come tu sai, l'ho inventato io cinematograficamente. Sì. Lui ha fatto con me Porte Aperte quando era solo un attore di teatro, e questo debutto ci ha lasciato a tutte e due la voglia di rivederci, sì, sullo, sì, schermo, sì, e io gli ho costruito un personaggio da protagonista che lui davvero meritava e merita, perché è un attore grandissimo. Bene, bene. Allora Gianni, io ti ringrazio. Ricordiamo La Tenerezza, uscito in sala lo scorso 20 aprile. Sugli schermi, sai in quante sale ancora sta? In tutte. Lo trovate non in tutte le sale del regno, diciamo in tutte le sale dalle quali è uscito, perfetto. Nel senso che non è nemmeno una settimana che il film, certo, è su. Certo. E quindi conserva un numero di copie che poi è un numero di copie secondo me congruo per, sì, il, sì, tipo di film, che è un film molto, molto per il pubblico. Infatti la cosa che mi conforta è che le sale sono piene, sono piene. E ieri sera anche erano, cioè ieri sera il film ha incassato molto per essere un mercoledì. E quindi abbiamo capito che oggi per esempio ci sono 35 copie in più, quindi è aumentato. Hanno anche, il film non era nei multiplex, adesso da stasera sarà nei multiplex. Bene. Allora un abbraccio Gianni, speriamo di risentirci a un breve con altre novità. E ci risentiremo credo molto prima di quanto tu sospetti. Oh, bene, sono contento. Ciao, a presto Gianni. A presto, ciao. Grazie. Gianni Amelio, regista del film La Tenerezza. Ed eccoci con Lorenzo Conte, co-regista del film La Guerra dei Cafoni, in uscita in sala oggi, giovedì 27 aprile. Lorenzo, ben ritrovato. Ciao Federico, un saluto a tutti, Radio Onda Rossa, Visionari, è un piacere stare con voi. Eh sì, come ti dicevo ieri, mi sono accorto con sgomento che era dal 2010 che non ci sentivamo in diretta qui a Visionari, e quindi era una lacuna che andava colmata. Essendo un binomio, no? Quello mio e di Davide, sì. Ultimamente ecco, si è mosso più lui, e sono veramente contento di... Bene. Ti pare oggi la trasmissione. Senti, allora, per chi ci ascolta diamo subito dei riferimenti, la storia, di cosa si parla nella Guerra dei Cafoni. Dunque, la guerra dei Cafoni è un film che è tratto da un libro di Carlo D'Amicis, uscito nel 2008, edito da Minimum Fax, e mischia vari generi, come spesso insomma facciamo io e Davide. In realtà è una storia di ragazzi, si può definire un romanzo di formazione, ma è anche, come dire, una metafora di una di una lotta di classe, però vista attraverso gli occhi dei bambini, dei ragazzini. È un film interamente girato con dei ragazzi, tutti alla prima esperienza, e in un qualche modo vediamo, come dire, è ambientato durante un'estate. Ci sono da una parte i figli della terra, i cosiddetti cafuni, no, in Salento, che se la giocano contro un'altra banda rivale, che è quella dei figli degli signori, cioè di quelli che in qualche modo hanno tutto i privilegi, hanno tutti i privilegi, e si scontrano per il predominio di Torre Matta, di questo territorio fantastico inventato, che è preso dal libro e che noi in qualche modo abbiamo un po' estremizzato. E la storia è un po' questa, ricalca, lo dice già il titolo stesso, in un qualche modo la guerra dei bottoni, sì, insomma, sì. Due bande rivali che in qualche modo si scontrano con uno sfondo, in questo caso un po' diverso da quello del romanzo e poi del film, della guerra dei bottoni. Senti Lorenzo, una curiosità, il dialetto mi è sembrato quello Puglia Nord-Est, o sbaglio? In realtà, allora, nell'idea nostra all'inizio il film doveva essere molto più salentino-centrico, sì, anche da un punto di vista linguistico. Poi facendo il casting il fronte si è allargato, sì, nel senso che sono entrati, abbiamo voluto mischiare questa volta. Ci sono dei ragazzi presi più a Bari e in provincia di Bari, e quindi là l'influenza che dici te, Gravina, Mola di Bari, che è completamente diverso dal salentino, dal brindisino, dal tarantino, questo è un po' un aspetto particolare. In Puglia paradossalmente storceranno il naso, no, i puristi, perché dico, ma come? Fratello e sorella, uno è salentino, uno è di Mola di Bari, che dialetto parlano? Proprio, se è stata proprio una scelta ben precisa e voluta, sia perché è proprio una polifonia di dialetti, sia perché i ragazzi, essendo 22 nel film, e per anche, come dire, privilegiare una naturalezza nella recitazione, li abbiamo lasciati a ruota libera, hanno recitato nella loro lingua. Quindi questo sia un aspetto molto particolare del film. Senti, il progetto com'era nato? Ma il progetto è nato semplicemente leggendo il libro. Okay. Io e Davide venivamo da un periodo, stavamo seguendo un progetto che si era un po' arenato. Abbiamo lo sceneggiatore con cui lavoravamo in un periodo, Marco Saura, ci ha segnalato questo romanzo. L'abbiamo letto, abbiamo deciso di incontrare lo scrittore, è stato un po' amore a prima vista. Lui conosceva anche il nostro film precedente, Fine Pena Mai, che comunque racconta anche là un anche se poi questo, La guerra dei cafoni, è girato in Puglia, ma non è un film pugliese in qualche modo. Quello raccontava un periodo scuro della Puglia, la nascita della Sacra Corona Unita, e avevamo un po' voglia di confrontarci con una storia completamente diversa. È coinciso un po' anche forse con una voglia un po' di ritornare anche bambini, essendo poi diventati nell'arco temporale molto lungo in cui si fanno i film in Italia genitori, quindi vedendo anche un po' crescere i nostri figli, e quindi un film, come dire, anche di combattimenti, di corsa, di libertà, di mazzate, di spazi larghi. Avevamo veramente la voglia un po' di uscire da un periodo diverso, e ci siamo un po' cimentati con questa storia. Senti, da oggi nelle sale come sarà l'uscita? Allora, da oggi nelle sale in Puglia. Okay. Oggi esce in 16, 17, 18, no, quasi tra i 15 e 20 sale cinema pugliesi, quindi abbiamo deciso, il distributore ha deciso di privilegiare, di dare vita a una settimana di distribuzione in Puglia, e il 4 maggio sul nazionale, il 4 maggio, giovedì prossimo, a Roma. Stiamo combattendo chiaramente sala per sala, pure questa è una guerra. A Roma uscirà al Fiamma e al Madison, questi sono i due cinema per ora sicuri. dal 4 maggio. E così a Torino, Milano, Bologna, Catania, Napoli, è una guerra tuttora in corso questa sul nazionale. Immagino che poi lo seguirete anche voi, nel senso ci saranno proiezioni alla vostra presenza. Sì, sì, sì, chiaramente lo seguiamo, ma io penso che avrà comunque una vita lunga, nel senso che è un film... alcuni l'hanno definito un film per ragazzi, anche se non è per ragazzi, è un film che però può essere anche, cioè secondo me avrà comunque un seguito. Faccio un esempio, cioè anche nelle scuole, pur non essendo assolutamente un film didattico, però essendo un romanzo di formazione, si possono cogliere dentro tante cose. Quindi noi lo seguiremo, saremo presenti il più possibile, noi così come Minimum Fax, che è la casa editrice che ha prodotto questo film, Carlo D'Amicis, che insomma è colui che ha scritto il libro, quindi anche bello questo confronto tra l'opera filmica e il romanzo, e i giovani protagonisti, che non tutti, che sono 22, ma volta per volta, tappa per tappa, ci aiuteranno okay. anche loro. Senti Lorenzo, allora un abbraccio, ci sentiamo spero prima di tutti questi anni, insomma, per delle prossime novità, va bene? Assolutamente, okay. Grazie e ci sentiamo veramente quanto prima. Dai, un abbraccio. Ciao Lorenzo. Un abbraccione. Ciao. Lorenzo Conte, co-regista del film La guerra dei cafoni, in uscita in sala oggi giovedì 27 aprile. Eccoci con Giacomo Ravesi per parlare della rassegna Viva Grifi all'Apollo 11 qui a Roma dal 2 al 4 maggio. Giacomo, ben ritrovato. Ciao, ciao. Allora, raccontaci un po', tanto per chi ci ascolta, per i più giovani anche, le più giovani, Grifi, come lo inquadreresti, come lo ricordi, cosa come ne parleresti? Ma guarda, non è facile, perché Alberto Grifi è rimasto sicuramente come il regista più rappresentativo di una stagione forse incommensurabile del cinema italiano, quella del cinema underground e del cinema militante, quindi di un cinema di ricerca molto particolare, che è iniziata nella seconda metà degli anni 60 e poi ha vissuto anche le trasformazioni sociali, culturali, il movimento del 77, gli echi del 68, quindi il femminismo, sono tutte cose che hanno interessato in maniera sostanziale, poi la rivoluzione delle arti visive, delle neoavanguardie della seconda metà appunto del Novecento, quindi un autore già di per sé densissimo di questioni storiche e culturali. Oltre a questa rilevanza critica e appunto da storici del cinema, credo che un altro elemento straordinario per le molte persone che lo hanno conosciuto era anche l'umanità di Alberto Grifi. Era una persona assolutamente che voleva donarsi, che si donava continuamente a tutti, che voleva parlare di sé, che voleva far vedere le proprie opere, che aveva contatti con tantissime realtà sostanzialmente, dall'arte fino ai centri sociali. Io ho conosciuto Alberto Grifi in una realtà di questo tipo, per esempio, e poi mi sono appassionato alle sue cose, ne ho seguite per un periodo anche direttamente le sue esperienze, e quindi ecco un caleidoscopio, diciamo, appunto, come forse potremmo usare questa figura, visto che il fisheye, questo il grandangolo deformante, era anche una delle sue chiavi stilistiche di molti suoi lavori. Giacomo, com'è strutturata la rassegna? Guarda, la rassegna è una rassegna di 3 giorni che inizia martedì 2 maggio e si conclude giovedì 4 maggio. Ha 2 proiezioni, diciamo, 2 slot, una alle 19 e una alle 21, eccetto mercoledì 3 maggio alle 19 ci sarà solo un film che è Anna, forse il film anche qui più rappresentativo, sì, più conosciuto di Alberto Grifi, perché è un film lungo, diciamo di 225 minuti, in cui si inseriscono anche lì tantissime questioni, dall'utilizzo del videotape, una delle prime sperimentazioni, insomma, ecco, quindi è un'opera così importante. E però appunto, oltre ai film di Alberto Grifi, a una selezione dei suoi film, abbiamo inserito anche dei film su Alberto Grisi, come per esempio In viaggio verso Alberto Grisi di Cane Capovolto, l'intervista fatta a Insu TV, insomma, ecco, tutte esperienze di questo tipo. E poi l'altra caratteristica di questa rassegna è che ci saranno degli ospiti, certo, che sono tutte le persone che sono state vicine ad Alberto, o che appunto l'hanno studiato, da Adriano Aprà a chiaramente a Alessandro Avanzi, Roberto Perpignani, Roberto Silvestri, che ha intervistato proprio in questa intervista realizzata da Cane Capovolto che ho nominato prima. Inoltre tutta la rassegna è curata, insomma, anche con l'associazione culturale Alberto Grisi, quindi. Senti, per quanto riguarda le informazioni in rete, ci sono degli spazi riservati? Sì, assolutamente. Se uno va su Facebook può andare chiaramente sulla nostra pagina Apollo 11, oppure basta scrivere Viva Grisi, che questo è il nome della rassegna, e appare appunto l'evento con tutte le notizie. Benissimo. Giacomo, un abbraccio. Ricordiamo allora la rassegna Viva Grisi all'Apollo 11 qui a Roma dal 2 al 4 maggio. Un abbraccio, in bocca al lupo. Credi, grazie tante. Ciao. Ciao. Ciao. Giacomo Ravesi dell'Apollo 11. Andrea Bacci, regista del documentario Paura non abbiamo, in uscita in sala il prossimo 2 maggio. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, come va? Bene, bene, grazie per l'interessamento nei confronti del film. Beh, a partire già dal titolo non potevamo non sentirti, insomma. Senti, allora, raccontiamo un po' a chi ci ascolta la trama, l'argomento di questo lavoro. Allora, Paura non abbiamo racconta la storia di Anna e Angela, che furono arrestate l'8 marzo del 55 mentre distribuivano la mimosa a Bologna, e per questo motivo furono incarcerate per un mese. E a quei tempi distribuire la mimosa era un atto sovversivo, si finiva in galera, e noi abbiamo raccontato questa storia partendo dalla loro storia, e per raccontare gli anni 50, gli anni della guerra fredda, e quello che accadeva in tutta Italia e particolarmente a Bologna, in quanto c'era particolari problematiche legate alla guerra fredda e al fatto che comunque le persone legate alla sinistra venivano represse, arrestate e incarcerate per motivazioni politiche. E c'era un ordine pubblico gestito dal signor Scelba, insomma, che esattamente, che... infatti Scelba aveva dato ordine per quell'8 marzo del 55 di non fare distribuire la mimosa, in quanto la mimosa era un simbolo politico all'epoca. Senti, come ha avuto origine tutto questo lavoro? Il lavoro è originato dalle ricerche di Eloisa Betti, che assieme a Mirko Dondi sono i miei due co-sceneggiatori, e in queste ricerche accademiche sono venute fuori tante storie interessanti. Quando mi sono state raccontate abbiamo subito pensato che era il caso di farci un documentario, perché sono storie che sono passate, diciamo, nel dimenticatoio, sono state dimenticate le storie di queste persone comuni che sono state arrestate, Anna e Angela, per aver distribuito la mimosa, ma noi abbiamo intervistato tanti testimoni, uomini e donne, che sono finiti in galera per aver scritto un articolo di giornale, per avere fatto una riunione sindacale o per aver semplicemente scioperato. Sì. Senti, all'epoca quali erano le rivendicazioni principali? Ma all'epoca i problemi principali erano innanzitutto la parità di salario delle donne, era una delle cose che chiedevano le donne, e chiedevano diritti sul lavoro che non c'erano, diritto di scioperare che non esisteva, e chiedevano tante piccole cose che noi adesso ci sembrano scontate, ma che comunque scontate non erano. Mm-hmm. Tra l'altro in quegli anni, nel 53, c'è stata un'ondata di licenziamenti, sono stati licenziati tantissime persone e i primi a venire licenziati erano gli appartenenti ai sindacati e ai partiti della sinistra. Mm-hmm. Quindi tante lotte sono state fatte in quegli anni per invalidare questi scioperi, anche se poi alla fine gli scioperi per invalidare questi licenziamenti, anche se poi alla fine i licenziamenti sono avvenuti e solo nel 74 è stata riconosciuta l'illegittimità di questi licenziamenti ed è venuta riconosciuta la pensione a questi lavoratori. Mm-hmm. Senti, in quegli anni del dopoguerra qual era il quadro politico? Ecco, spieghiamo anche soprattutto per i più giovani. Il quadro politico era di forte contrasto, c'era la guerra fredda, quindi il blocco dell'est e della Russia, il blocco dell'ovest degli Stati Uniti si scontravano proprio a Bologna, vale a dire l'unica grande città italiana alla guida della sinistra. Sì. E il sindaco Dozza era un sindaco di sinistra e quindi era, diciamo, una città pericolosa. E la stessa ambasciatrice americana in Italia vedeva Bologna come il problema principale dell'Italia. Mm-hmm. E per questo motivo infatti ci furono grossi attriti tra l'amministrazione comunale che era dalla parte dei lavoratori e la polizia, la Celere, che appunto aveva l'ordine di reprimere e sopprimere questi moti, diciamo, contrari al governo. Mm-hmm. Senti Andrea, quanti e quante sono stati i tuoi interlocutori e interlocutrici e quali impressioni ne hai ricavato lavorando a questo progetto? Interlocutori nel senso di persone che abbiamo intervistato? Sì, esatto. Abbiamo intervistato una decina di persone testimoni degli eventi e oltre a altri sei esperti storici o esperti della materia e sostanzialmente abbiamo dato un quadro esaustivo di quello che non è mai stato raccontato degli anni 50 di quegli anni, nel senso che quello che è venuto fuori è stato una grande varietà di persone che si occupavano prendere le parti e le difese di chi veniva arrestato, è venuto fuori un quadro di grande solidarietà tra le persone che erano fuori dal carcere e i prigionieri che possono essere definiti politici, visto che comunque i prigionieri politici venivano arrestati con grande frequenza in quegli anni e quindi c'era una vera e propria categoria di prigionieri politici per i quali c'era un grosso sostegno dall'esterno, venivano dati avvocati che si occupavano di difenderli gratuitamente, le persone dall'esterno ogni giorno li portavano da mangiare e l'appoggio che veniva dato a queste persone è stato enorme e abbiamo scoperto storie umane molto interessanti di lotta e di sostegno a queste persone. Senti, per l'uscita, che tipo di uscita avete pensato e poi ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora il sito di riferimento è www.pauranonabbiamo.it. Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 maggio in proiezioni singole e abbiamo circa 25 date al momento che si andranno a ampliare e è stata fatta una micro distribuzione capillare in tutta Italia, in tutte le città dell'Emilia Romagna, poi Milano, Roma, Torino, tutte le grandi città e sostanzialmente l'intento è quello di raccontare e di fare conoscere questa storia, queste storie nascoste, che sono state nascoste per tanti anni, di queste persone che si battevano per diritti che noi oggi diamo per scontati, ma che sono nuovamente messi in discussione. Andrea, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. A presto, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Andrea Bacci, regista del documentario Paura non abbiamo, in uscita in sala il prossimo 2 maggio. Francesco Melzi sulla distribuzione del film The Circle di James Ponsoldt, in uscita in sala oggi giovedì 27 aprile, film al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto che credo però riguardi più il libro che il film. Comunque la storia è quella. Francesco, ben ritrovato. Ciao. Per chi ci ascolta, la storia di questo film. Sì, dunque, è la storia, innanzitutto bisogna parlare velocemente dei protagonisti, che sono Tom Hanks e Emma Watson. Emma Watson, che è reduce dall'incredibile successo di Bella e la Bestia, quindi un cast di attori principali fantastico. È la storia di una ragazzina del nord della California che trova un posto, viene assunta in questo The Circle, che è una sorta di società di Silicon Valley simile Facebook, se vogliamo. Sì. Una società di social media, una company di social media fondata dal personaggio interpretato da Tom Hanks. E lei viene subito coinvolta in questa dentro le dinamiche della società, sono quelle un po' le dinamiche delle new economy, con tutti giovanissimi, tutti attivissimi, tutti gasatissimi, e lei parte in quarta, comincia ad avere un successo rilevante all'interno della società, fino a che non viene presa a modello proprio come, diciamo, bandiera della società dal capo, da Tom Hanks, e lei comincia a condividere grazie a delle micro telecamere che sono postate ovunque, che tra l'altro sono anche una sorta di droni che la seguono ovunque lei vada, quando fa sport, quando è col fidanzato, quando va dalla famiglia, eccetera, e fondamentalmente condivide la propria vita con tutti i suoi follower, con tutti i partecipanti al The Circle, che sono milioni di persone in tutto il mondo. Mm-hmm. Questo porta ovviamente a un certo punto a una rottura con la famiglia, una rottura con il fidanzato, e a un certo punto capisce che questa estremizzazione della socialità, della partecipazione online fra persone può portare anche a delle perversioni, se vogliamo. In più c'è anche un tema molto interessante, e quindi a un certo punto lei reagirà a tutto questo. Mm-hmm. C'è un tema molto interessante di quello che è legato alla rappresentanza. Sì. Politica nei tempi di Facebook, o nel caso del nostro film di The Circle. Sì, nel sì. senso che queste media company possono influenzare milioni di persone anche a votare questo o quell'altra persona di un partito politico. Sì, sì, è un tema, forse il tema più rilevante che ci sia oggi al mondo, uno dei temi più rilevanti e importanti che ci sia oggi al mondo. Nel senso, un uomo come Zuckerberg, per esempio, il fondatore di Facebook, che potere immenso ha, oltre ai soldi, ai miliardi di cui dispone, ma che potere immenso ha nei confronti del suo pubblico, dei suoi associati, dei follower di Facebook. Uno come Zuckerberg potrebbe tranquillamente, e se ne è già parlato, costituire un movimento politico da 4 anni e vincere le elezioni negli Stati Uniti grazie alla sua forza mediatica immensa, come non c'è mai stata nel corso della storia dell'uomo. Nessuno ha quel tipo di potere sulle persone adesso ha avuto, nessuno ha avuto un potere così come adesso ha Zuckerberg sui suoi associati, diciamo, di Facebook. Questo quindi è un po' il tema trattato da, che trovo molto interessante, da The Circle. Sì. Francesco, uno degli slogan più suggestivi e accattivanti del film è Secrets are lies, i segreti sono bugie. E qui entra in gioco la più grande contraddizione di una macchina come questa, di questa azienda che ci hai descritto, in quanto i capi hanno in realtà un'identità e un'attività piuttosto segreta, e quindi questo mette proprio in contraddizione tutto quello che è il loro operato e che poi farà scattare la reazione della ragazza. Assolutamente. Comunque torna anche peraltro il tema della privacy. Esatto. Secret are lies, in un mondo interconnesso in cui tutti sanno tutto di tutti, ci si deve chiedere chi gestisce questo, esatto. Chi gestisce i dati della privacy e come ci si può difendere. Questo è un altro tema essenziale del film. Sì. Senti Francesco, come avete incontrato il film e come poi avete deciso la distribuzione? No, guarda, l'abbiamo acquistato ormai direi 2 anni fa, quasi 2 anni fa. Ci piaceva molto il cast, ci piaceva molto il tema. Il film tra l'altro è tratto, The Circle è tratto da un libro molto importante di uno scrittore bravissimo che è Dave Eggers, un bestseller internazionale, e quindi ci è sembrato potesse essere il film giusto per noi. Tra l'altro Tom Hanks è uno... Il cast eccezionale, tra l'altro una cosa interessante, all'inizio il cast era composto da Tom Hanks e Alicia Vikander. Sì. Che poi ha mollato il progetto ed è entrata Emma Watson, che devo dire che a posteriori sono molto contento di quello. Sì. Che è Tom Hanks, che è tra i produttori, se non sbaglio, della... Sì, uno dei produttori della società di produzione, esatto. Francesco, che uscita ci sarà? È un'uscita per noi molto importante, per noi e per Adler, perché ci saranno circa 285 copie in tutta Italia. Quindi ovunque, in tutte le multisale, The Space, UCI e tutti poi i cinema delle grandi città, in provincia, insomma è un'uscita per noi enorme e comunque un'uscita molto importante e massiccia. C'è molta attesa per il film, tra l'altro. Francesco, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione del film The Circle di James Ponsold, in uscita in sala oggi giovedì 27 aprile. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissione Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Mirko Melchiorre, co-regista del documentario Pigs, ovvero Come imparai a preoccuparmi e a combattere l'austerity, in uscita in sala oggi giovedì 27 aprile. Mirko, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie per averci ospitato di nuovo. Eh sì, ce l'eravamo promesso, abbiamo detto in occasione dell'uscita ci risentiremo, così è stato. Mirko, allora, per chi ci ascolta, di cosa parla Pigs? Ma Pigs è semplicemente un'indagine lucida e ironica su quella che è stata la crisi in Europa, su quella che è stata la crisi finanziaria, e ne distrugge, diciamo, di questa crisi i dogmi su cui è stata costruita tutta l'architettura dell'Europa. È un'analisi lucida che si divide in due livelli. A un livello macroeconomico abbiamo fatto un'indagine attraverso le analisi di economisti, di pensatori intellettuali come Noam Chomsky, come De Grauwe, come Varoufakis. In Italia abbiamo Henri De Luca, e attraverso loro appunto abbiamo capito come i paesi che vengono definiti pigs, e da qui il titolo del nostro film, che sono i paesi appunto Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, definiti pigs perché avevano un debito pubblico altissimo, l'inadeguatezza non risiede tanto in questi paesi quanto appunto nell'architettura su cui si basa l'eurozona. E questa lettura macroeconomica, questa indagine macroeconomica l'abbiamo rapportata a una storia una storia piccolina, una storia micro, una storia ambientata in provincia di Roma, e che racconta la storia di una cooperativa sociale. Questa cooperativa sociale sta rischiando di chiudere a causa appunto dei tagli delle politiche di austerity, e rischiando di lasciare a casa 150 ragazzi disabili e più di 100 operatori che lavorano per questa cooperativa. Quindi è un documentario che mostra semplicemente quelli che sono gli effetti negativi di queste politiche di austerity sulla vita di tutti noi. Senti, com'era nato tutto, questa idea soprattutto del confronto tra macroeconomia e la piccola realtà di una cooperativa sociale di Monterotondo? Ma guarda, nasce tutto perché fondamentalmente io, Adriano e Federico, che siamo registi, per anni vedevamo questa, avvertivamo proprio anche sulla nostra pelle questa crisi, e non trovavamo delle risposte, o perlomeno trovavamo tantissime risposte negli organi di informazione, che erano sempre le stesse, e quindi avevamo un senso di frustrazione, e quindi è iniziato un'indagine innanzitutto per capire noi che cosa ci fosse realmente dietro la parola crisi economica, no? Che abbiamo sentito per anni: dobbiamo fare i sacrifici, staremo un giorno meglio, dobbiamo fare le riforme strutturali, la crisi ce la meritiamo perché siamo incapaci di gestirci, siamo incapaci di gestire le nostre economie. E quindi nasce come nostra indagine personale, proprio per capire noi in prima persona che cosa stesse accadendo nel nostro paese. Ci siamo accorti che non era un problema appunto solo del nostro paese, quindi non era il problema semplicemente delle nostre politiche, dei vari Berlusconi, delle varie mafie capitali, della corruzione, ma ci siamo resi conto che era un problema europeo. E a quel punto abbiamo deciso appunto di alzare un po' il tiro e appunto interpellare persone di una grande professionalità, come appunto Noam Chomsky, quello che dicevo prima, Stephanie Kelton, advisor di Bernie Sanders, per capire meglio che cosa ci fosse. E non abbiamo voluto appositamente chiedere far fare un'analisi a quelle persone che per 20 anni hanno popolato tutti i salotti televisivi e ripetevano sempre lo stesso mantra. Senti, allora, intanto uno dei pregi del documentario è attraverso dei concetti, delle parole piuttosto semplici, rendere chiari delle questioni economiche fondamentali, e tra l'altro attraverso le parole dei vostri ospiti smontate tre di quelli che sono i cardini della politica economica europea e internazionale, ossia il debito, il deficit e l'inflazione. Sì, appunto, come dicevo prima, abbiamo cercato di smontare uno a uno tutti quelli che sono stati i dogmi che ci hanno inculcato in questi ultimi anni, come appunto il 3% del deficit, che è una regola che è totalmente priva di una base scientifica, creata e inventata in una notte da un funzionario del governo di Mitterrand in Francia, e che poi è stata ripresa da Trichet in Europa nel trattato di Maastricht, una teoria che creata casualmente mettendo in rapporto il deficit al PIL, ma che non ha una vera e propria teoria economica dietro, ma è una semplice proporzione. Sì, sì. Un altro abbiamo appunto, secondo me e secondo noi, la forza del documentario appunto è e il far vedere come questi paradigmi su cui si basano le politiche d'austerity, non avendo appunto una base scientifica, però vanno a colpire direttamente le nostre vite. Sì, sì, sì. Uno dei concetti interessanti è quello della moneta, che quando non viene più stampata dal paese riduce drasticamente la sovranità nazionale, il che non crea un'interdipendenza comunitaria come nel caso dell'Europa, ma una dipendenza da macroorganismi economici che decidono sulle nostre vite. Sì, sì. Certo, infatti là possiamo anche un po', no, ricordare la metafora degli ossi che fa Mosler, e ci fa vedere come in un sistema come il nostro, se vengono dati 95 ossi in una stanza, messi 95 ossi in una stanza con 100 cani, rimarranno sempre 5 cani senza osso, e per queste problematiche la microeconomia non può far nulla, perché appunto queste, diciamo, la quantità delle ossa vengono decise dalla macroeconomia, vengono decise dalle politiche di questa eurozona abbastanza strana, ed è stata tolta la possibilità ad ogni nazione, a ogni paese, di poter gestire la propria politica economica, perché sì, appunto non abbiamo una nostra moneta, ma una moneta straniera che dobbiamo prendere in prestito. E soprattutto le possibili soluzioni vengono ovunque individuate nella riduzione del debito e quindi nel taglio della spesa, il che colpisce poi l'occupazione, lo stato sociale, e vengono attuati dei tagli che colpiscono in realtà le fasce più deboli della popolazione. Sì, sì, anche qui il collegamento che facciamo sulla vita reale, quindi sulla nostra cooperativa, a mano tagliando tutte le spese, quello che ne ha fatto più i conti è stato appunto il welfare state, e quindi la tutela di quei diritti sacri che abbiamo conquistato negli anni nel dopoguerra e che mano a mano stanno disintegrando. Diciamo che il pungiglione è una storia simbolica anche per quello, perché appunto rappresenta l'ultimo baluardo del welfare state. Sì, sì, sì. E se una nazione non è più in grado e non può più gestire le economie e poter avere una politica espansiva nel welfare state, non pensiamo che possa essere definito un paese moderno. Sì. E ci piacerebbe vivere in un paese moderno, in un'Europa moderna. Mirko, che uscita sarà quella di Pigs? Sarà un'uscita piccolina con il nostro distributore Andrea Cirla della Pierrouge, ma molto agguerrita. Saremo a Roma oggi, il film uscirà il 27 aprile, oggi uscirà. A Roma abbiamo in programmazione nelle sale del Jolly, nelle sale del nuovo Cinema Olimpia, e poi saremo a Torino al Cinema Nazionale, a Milano al Cinema Beltrade, a Bologna questa sera al Cineteatro Orione, a Perugia al Cinema Zenith, a Reggio Calabria, a Palermo, e poi è importantissimo andare subito da oggi nel primo weekend, perché appunto abbiamo bisogno del contributo di tutti, e più persone vanno al cinema e più c'è possibilità che questo film venga visto e che vengano ampliate le sale che distribuiscono questo film. Quindi è importantissimo che le persone vadano a vedere Pigs. Un abbraccio Mirko, a risentirci presto. Grazie a voi, ciao. Ciao. Mirko Melchiorre, co-regista del documentario Pigs, ovvero Come imparai a preoccuparmi a combattere l'austerity. Eccoci con Alessandro Tiberio di Wanted Cinema per parlare della distribuzione del documentario Merci Patron di François Raffin, in uscita in sala il prossimo 1° maggio. Intanto Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, è un piacere essere con voi. Salve a tutti. Allora, raccontiamo un po' a chi ci ascolta cos'è questo Merci Patron. Ah, Merci Patron è uno dei titoli più interessanti che abbiamo quest'anno. È un esempio di docu-commedia, è un documentario esilarante che è uscito in Francia verso la fine dell'anno producendo delle sorprese veramente incredibili, perché si tratta di una truffa organizzata da la rivista satirica Fakir, che è una delle riviste più note insomma in Francia, che ha preso come obiettivo il grande magnate del gruppo del lusso Bernard Arnault, che insomma, come purtroppo è usanza di molti imprenditori che lavorano in un contesto e hanno un'ottica globalizzata nella gestione dei loro affari, tanto per capirci il gruppo di Arnault controlla realtà come Dior, come Gucci, come Carrefour, quindi veramente delle imprese colossali, e quindi ha spostato, ha delocalizzato la produzione, soprattutto per quanto riguarda i beni appunto di lusso, della moda in particolare, ha delocalizzato la produzione dalla Francia verso altri paesi europei e non, dove la manodopera costa molto meno, licenziando in tronco migliaia di operai e distruggendo intere aree urbane, perché alcune zone della Francia, proprio delle province, vivevano intorno a questa attività manifatturiera che, una volta cancellata, appunto ha prodotto delle situazioni di degrado molto molto gravi. Cosa fa François Ruffin? Propone a una serie di questi operai che sono rimasti senza lavoro e che sono quindi in delle condizioni di estrema indigenza di organizzare dei divertentissimi ricatti in maniera anche super cervellotica per ottenere una sorta di risarcimento. E beh, non voglio ora rivelare tutto quello che accade all'interno del film chiaramente, ma un po' quasi creando una stangata, insomma un grande gioco di specchi, di bugie, di false piste, eccetera eccetera, alla fine riesce a mettere sotto ricatto questo gigante dell'imprenditoria, con dei risultati veramente spassosissimi. E il film ha avuto, come dicevo, un successo strepitoso in Francia, è stato visto da più di 500.000 di spettatori, essendo una produzione molto piccola, appunto una produzione super indipendente, questo ha avuto un eco anche dal punto di vista mediatico gigantesco e messo in grande imbarazzo il gruppo di Arnault, dando proprio un esempio anche concreto di quali sono gli strumenti su cui possono giocare anche i lavoratori per far rispettare il loro ruolo, i loro contratti e i loro diritti. Lo stile ricorda molto Michael Moore e volevo dire anche che insomma ricorda insomma piuttosto emblematico questo caso, perché il patron in questione non è solo a capo di un colosso multinazionale, ma anche oltre al fatto che, come dicevi tu, ha delocalizzato in paesi come la Bulgaria, come la Grecia, in cui il costo dei lavoratori è molto più basso, ma non si è neanche preoccupato molto dei licenziamenti di massa che ha creato, ha spostato la sua residenza all'estero per non pagare le tasse, insomma tutta una serie di operazioni che più o meno compiono tutti i grandi magnati delle grosse multinazionali. Sì, purtroppo è così, e non dobbiamo dimenticare che Arnault, essendo, credo, non so se nella top 10 o tra i top 15 degli uomini più ricchi del mondo, ha anche un'influenza politica estremamente estremamente forte. E tra l'altro questo film è diventato uno dei manifesti della polemica e della lotta contro le nuove leggi che sono state messe in vigore in Francia proprio sul tema lavoro, volute appunto e spinte da personaggi come Arnault. Esce non a caso il 1° maggio, che uscita sarà, Mirko? Stiamo organizzando un tour in varie città, in varie sale. Partiamo il 1° marzo con il primo spettacolo alle 18:30 e un secondo alle 22:30 al Cinema Farnese di Roma. Successivamente sarà a Firenze con due date, il 2 di maggio alla Fondazione Spensen e il 5 di maggio presso lo Spazio Alfieri. Sarà poi a Torino, Milano, Parma e piano piano stiamo un po' costruendo questo tour. Ci interessa che il film, come spesso accade insomma per i nostri titoli, venga accompagnato anche dalla presenza di un ospite, così che non si limiti soltanto alla visione, ma si riesca ad approfondire appunto talune tematiche. Quindi in questo caso insomma stiamo cercando i vari ospiti per i nostri vari eventi. Ci dai anche dei riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì, il nostro canale principale è chiaramente Facebook, alla nostra pagina Wanted Cinema, dove trovate tutti i dettagli e gli aggiornamenti sia sulle date sia sulle presenze, gli ospiti, appunto alle varie proiezioni, o il sito wantedcinema.eu. Benissimo, allora Alessandro, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Alessandro Tiberio di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario Merci Patron di François Raffin, in uscita in sala il prossimo 1° maggio. Elisa Flaminia Inno, regista del documentario Pagani, in tour a partire dallo scorso 22 aprile. Elisa, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Cos'è Pagani? Pagani è un documentario che racconta il culto della Madonna delle Galline, che è una vergine di origini pagane che viene celebrata ancora oggi nel contemporaneo come una divinità. Viene pregata con canti e danze ancestrali e tutta la comunità si riunisce per preparare durante l'anno l'accoglienza a questa Madonna delle Galline. Senti, come nasce quest'idea del documentario? Allora, il film nasce dall'incontro con il mondo della devozione popolare in Campania, che è un mondo pregno di una cultura antica che ancora sopravvive nel contemporaneo. Questa cultura antica, vivissima e forte, contiene ancora degli elementi di religiosità e degli elementi di cultura che provengono da lontano, da lontanissimo, e che appartengono alla nostra civiltà mediterranea. Nell'incontro con il contemporaneo, questa tradizione ha generato dei sincretismi che hanno quindi creato uno scenario interessantissimo e da raccontare. La particolarità di questa storia è che gran parte della comunità dei devoti alla Madonna delle Galline appartiene al mondo omosessuale. I cosiddetti femminielli sono dei personaggi importantissimi all'interno di questa tradizione e portano all'interno del culto della Madonna delle Galline anche degli elementi di cultura gay attualizzata e innestata all'interno della religione. Come ti sei mossa per il documentario? Hai realizzato interviste? Hai seguito nel quotidiano alcuni dei tuoi protagonisti? Non ho realizzato alcuna intervista, questo è un film assolutamente diretto, è un documentario di creazione. La prima cosa che ho fatto è ho frequentato in prima persona per circa 5 anni la festa della Madonna delle Galline e tutti i preparativi insieme alla comunità di devoti. Poi mi sono trasferita sul posto per circa 3 anni e quindi ho vissuto insieme a loro tutta l'emozione dell'attesa della Madonna e poi della festa. Questo l'ho trasportato nel mio stile di regia, usando una macchina sempre a mano, una macchina sempre vicina ai personaggi, finalizzata a trasmettere allo spettatore tutta l'emozione della devozione. Senti, cosa prevede questo culto? Il culto della Madonna delle Galline prevede una serie di appuntamenti che partono 30 giorni prima della festa con l'alzata del quadro davanti al Tosello Madre, che è un altare votivo che viene costruito da quel momento in poi per 30 giorni fino al passaggio della statua, prevede la costruzione di questo altare votivo che rappresenta con dei simboli l'anno che è trascorso e viene diciamo costruito in segreto per poi essere rivelato alla comunità al momento del passaggio della Vergine. In questi 30-40 giorni che precedono la festa ci sono anche tutta una serie di rituali che interessano sia il mondo contadino sia il mondo religioso e in questo caso anche appunto la comunità gay che segue questo culto, per cui il film diciamo intreccia una serie di avvenimenti che vanno più o meno dal carnevale fino alla festa della Madonna delle Galline che cade una settimana dopo Pasqua e va quindi a raccontare questo momento dell'anno che per gli antichi era un momento molto importante perché era quello del passaggio alla primavera, quindi alla rinascita, al nuovo anno, e in realtà tutte le celebrazioni per questa Vergine e in questo periodo sono proprio rivolte appunto alla celebrazione della primavera, dell'amore e della rinascita. Mm-hmm. Senti, in tour da una settimana circa, come saranno le proiezioni con te che presenti il film, come si stanno svolgendo? Sì, allora Pagani diventerà un cinetour, è già diventato un cinetour, abbiamo iniziato da Milano al Filmmaker Festival, poi al Cinéma du Réel di Parigi e abbiamo poi inaugurato invece la tournée cinematografica distribuita appunto dall'Istituto Luce in Italia, cominciando proprio da Pagani. Siamo appunto ieri ritornati dalla festa della Madonna delle Galline dove abbiamo avuto una settimana di proiezioni e la proiezione presentata da me ed è poi seguita da un concerto di musica popolare tenuto direttamente dai protagonisti del film, in particolare da Vincenzo Romano e Antonello Giardino, che sono due musicisti di Pagani che rappresentano la cultura paganese, e quindi riusciamo a portare un pezzo vivo della festa e del culto della Madonna delle Galline in giro per l'Italia. Saremo a Napoli il 5 maggio ad Astradoc e a Roma al Cinema Apollo tra fine maggio e inizio giugno. Invito poi tutti i radioascoltatori a seguirci sulla pagina Facebook Pagani il Film per restare aggiornati su tutte le tappe nelle varie città italiane. Benissimo, ci hai detto tutto, anche i riferimenti che volevo chiederti. A questo punto un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto Elisa. E viva il lupo, grazie mille e buona serata a voi. Ciao ciao. Ciao ciao. Elisa Flaminia Inno, regista del doc Pagani, in tour dallo scorso 22 aprile. Matteo Civaschi, coautore del libro Cinemology, al foyer del cinema Spazio Oberdan a Milano dal 26 aprile ieri, quindi fino al 25 maggio. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, un'operazione molto interessante, Cinemology, raccontaci un po'. Ma allora sono contento diciamo di questa operazione, di questo libro, perché è un po' una rivisitazione del mondo del cinema, però diciamo partendo dai fratelli Lumière, che sono sostanzialmente quelli che hanno inventato questo meraviglioso mondo, raccontato attraverso un libro appunto che si chiama Cinemology, con una grafica accattivante che traduce tutte quelle che sono stati passaggi storici importanti di quello che è appunto il cinema in un modo molto semplice e anche molto divertente. Quindi attraverso la potenza del graphic design e dell'infografica abbiamo raccontato quelle che sono diciamo le date storiche della storia del cinema. Quindi vi siete mossi attraverso insomma dei grandi eventi, grandi date di riferimento, questo sostanzialmente? Sì, Esatto, appunto dalla prima proiezione a pagamento dei fratelli Lumière fino a Titanic di James Cameron, passando anche da Charlie Chaplin piuttosto che Orson Welles, o addirittura Cantando sotto la pioggia. Quindi tutti questi grandi classici del cinema sono stati, diciamo, rivisitati, reinterpretati in un modo sintetico attraverso il linguaggio di Shortology, che poi è appunto questo linguaggio che si rifà all'uso dell'infografica in un modo molto creativo, e raccontando sostanzialmente cosa c'è dietro questi film, come sono stati creati, quali sono state le idee, quali sono anche gli aneddoti che ci sono dietro. Quindi tutto, diciamo, il mondo del cinema esploso in ogni sua forma. Senti, quante sono le tavole del libro? Ma allora, diciamo che le pagine del libro sono oltre 200, okay. Se non sbaglio sono 210. Le tavole cambiano, nel senso che all'inizio ci sono 10 quadri che raccontano 10 appuntamenti fondamentali per quanto riguarda appunto la storia del cinema, cioè i registi o gli interpreti che hanno fondamentalmente creato lo storytelling nel cinema. Dopodiché il libro racconta quelli che sono i tecnicismi nel cinema, quindi ci sono 18 capitoli in cui viene raccontato come si monta un film, la pellicola, di che materiale è fatta e anche quanto poteva essere molto delicata una volta, come andava trattata, quali sono le malattie del cinema, il cinema oggi come viaggia, come si viene distribuito, piuttosto che una tavola fondamentale riassuntiva di come viene creato un film, che secondo me è uno dei punti, diciamo, climax del libro, in cui veramente si capisce la macchina produttiva che c'è dietro un film, che può essere un film molto semplice piuttosto che un colossal tipo Star Wars. Mm-hmm. Fondamentalmente poi il, diciamo, l'impianto produttivo è sempre quello, e c'è dietro una schiera di professionisti che fanno sì che questo, che appunto, che questo prodotto, che poi è un film, sia fatto come deve essere fatto, e quindi il risultato sia sempre interessante e piaccia al pubblico. Però dietro veramente c'è un lavoro straordinario. Mm-hmm. E con l'infografica abbiamo cercato proprio di rendere semplice e comprensibile appunto come si crea un film. Matteo, in che rapporto vedi il tratto disegnato con l'immagine filmica? È un rapporto che una volta, diciamo, c'era un distacco notevole, nel senso che appunto c'erano dei film di animazione anche molto semplici, legati appunto al disegno, vediamo la storia di Walt Disney, e quindi c'era o l'animazione o appunto il film. Adesso invece diciamo siamo in un'era in cui a volte troviamo anche degli esperimenti in cui il tratto disegnato, o comunque questo tratto istintivo fatto appunto da artisti, molto spesso si fonde con la pellicola, col girato, e secondo me è un momento, diciamo, di sperimentazione che offre delle grandi opportunità. Quindi secondo me il cinema da questo punto di vista si è evoluto molto. Un esempio su tutti, per esempio, è il film di Tarantino, Kill Bill, che a un certo punto diventa diciamo un film di animazione dove si viene raccontato un personaggio attraverso proprio quello stile giapponese di queste anime che raccontano appunto il personaggio in quel momento del film, ed è fatto tutto in illustrazione, con un segno, con un tratto proprio illustrativo. E questo matcharsi secondo me è una cosa molto bella, molto interessante, molto poetica. Matteo, ci sono dei riferimenti web rispetto a Cinemology per saperne di più? Dei riferimenti web, vi potrei dire di seguire la pagina di Shortology, che sostanzialmente ogni tanto butta, diciamo, su Facebook, la pagina di Shortology su Facebook butta delle chicche legate appunto a questo libro. Quindi se diciamo i nostri fan che ci seguono ogni tanto appunto ricevono un po' queste contaminazioni cinematografiche, che poi vengono riassunte appunto in questo libro Cinemology. Bene, allora Matteo io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento nel foyer del Cinema Spazio Oberdan a Milano dal 26 aprile scorso fino al 25 maggio, e a risentirci presto. Grazie mille, grazie. Ciao Matteo. Vi aspettiamo tutti, grazie. Ciao, alla prossima. Arrivederci, ciao. Matteo Civaschi, coautore del libro Cinemology. Avremmo dovuto sentire anche Stefano Iacono di Movies Inspired sulla distribuzione del film A Casa Nostra di Lucas Belvaux, in uscita in sala oggi giovedì 27 aprile, ma non riusciamo a metterci in contatto con lui, per cui ci salutiamo, ci diamo appuntamento per Visionari giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza.